Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti per questo martedì 19 novembre. Mentre l'Italia continua a essere flagellata dal vento e dalla destra, noi andiamo subito a Radio Bullet. Buon ascolto. Buongiorno e benvenuti nelle notizie che ci raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Colombia, polizia in massima allerta per la manifestazione di giovedì. Ogni anno milioni di minori vengono privati della loro libertà. Gli Stati Uniti, il paese con più minori in carcere. Israele, per Trump, gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi non sono più illegali. E siamo tutti muat. I giornalisti palestinesi solidali con il fotografo colpito a un occhio da un soldato israeliano. La Turchia minaccia una nuova offensiva in Siria e a proposito di Siria, un'inchiesta rivela che tra i detenuti dell'ISIS ci sono decine di residenti di Trinidad e Tobago. Pakistan, ex premier in carcere, vola a Londra per motivi di salute. Infine, oggi è la giornata internazionale del gabinetto. Sapete quante persone nel mondo non hanno ancora accesso ai servizi igienici? Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. E cominciamo dalla Bolivia. Preso il potere, ottenuta l'approvazione da parte dell'esercito, il governo ad interim sembra pronto a provare a cementare il suo governo colpendo i parlamentari fedeli al governo precedente. Il Ministero degli Interni ha affermato che stanno istituendo un nuovo apparato speciale della procura per reprimere i deputati del precedente partito del Movimento per il Socialismo, il MAS. Ha promesso di pubblicare un elenco di parlamentari banditi dall'ufficio e soggetti ad arresto per sedizione. Oltre alle minacce contro i deputati del MAS, che in realtà sono il partito di maggioranza in Parlamento, il Ministero delle Comunicazioni Intermedie ha anche rilasciato una dichiarazione in cui minaccia di arrestare tutti i giornalisti, sia boliviani che stranieri, che si ritiene siano in combutta con l'ex governo. Dopo che il presidente Morales si è dimesso e ha trovato rifugio in Messico, Jeanine Áñez si è dichiarata presidente ad interim. Non ha ottenuto il sostegno del Senato boliviano e probabilmente crede che tenere fuori il più grande partito le consentirà di mantenere il potere in futuro. La Colombia ieri ha dichiarato che autorizzerà le autorità locali ad adottare misure eccezionali per contenere le proteste previste per giovedì, vista la preoccupazione in relazione ai violenti disordini che stanno colpendo altre capitali latinoamericane. Gruppi studenteschi e sindacati hanno invocato manifestazioni dicendo che l'amministrazione conservatrice del presidente Iván Duque sta cercando di imporre riforme del lavoro e delle pensioni, sebbene Duque abbia ripetutamente negato questo nel tentativo di calmare i critici. Lunedì il ministro degli interni, Nancy Patricia Gutierrez, ha affermato che ci sono false motivazioni alla chiamata allo sciopero e ha ribadito che il governo non ha in programma di aumentare l'età pensionabile o di abbassare il salario minimo. Gli enti locali regionali saranno in grado di imporre il coprifuoco e limitare il trasporto di armi e la vendita di bevande alcoliche qualora le circostanze lo rendessero necessario, ha detto Gutierrez ai giornalisti. La polizia è in massima allerta, ha aggiunto. Stati Uniti, sparatoria in Oklahoma, in un centro commerciale Walmart, 3 morti tra cui l'attentatore e alcune persone ferite. In California invece spari durante la visione di una partita in giardino, 4 morti, 6 feriti a Fresno. E gli Stati Uniti hanno il più alto tasso di minori detenuti al mondo, tra cui oltre 100.000 in custodia per immigrazione, il che viola il diritto internazionale, ha detto ieri l'autore di uno studio delle Nazioni Unite sulla privazione della libertà dei minori in tutto il mondo. Oltre 7 milioni di persone di età inferiore ai 18 anni sono detenute in carcere in custodia della polizia, di cui 330.000 nei centri di detenzione per l'immigrazione, ha affermato l'esperto indipendente Manfred Novak. Gli Stati Uniti sono uno dei paesi con il maggiore numero di persone. Abbiamo ancora più di 100.000 bambini in detenzione legata alla migrazione, ha dichiarato. Certo, la separazione dei bambini, come è stato fatto dall'amministrazione Trump e dai loro genitori e persino dai bambini piccoli al confine messicano-americano, è assolutamente vietata dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia. Lo definirei un trattamento disumano per entrambi, genitori e figli. Gli Stati Uniti detengono una media di 60 su ogni 100.000 minori nel sistema giudiziario in custodia legata all'immigrazione, ha affermato Novak. Il tasso più alto del mondo, seguito da paesi come la Bolivia, Botswana e Sri Lanka, anche il Messico, dove molti migranti centroamericani sono stati respinti al confine con gli Stati Uniti, ha un numero elevato di persone, con 18.000 bambini in detenzione legata all'immigrazione e 7.000 in carcere. Il tasso degli Stati Uniti rispetto a una media di 5 per 100.000 in Europa occidentale, 14-15 per 100.000 in Canada, ha aggiunto almeno 29.000 bambini, principalmente legati allo Stato islamico dell'Iraq, e dei combattenti dell'ISIS sono detenuti nella Siria settentrionale e in Iraq con cittadini francesi, tra il più grande gruppo di stranieri, ha aggiunto Novak. Anche se alcuni di questi bambini fossero stati bambini soldati, affermato, dovrebbero essere trattati principalmente come vittime, non come responsabili, in modo che possano essere riabilitati e reintegrati nella società. Radio Bullets, le notizie che frantumano il silenzio. Yemen, i ribelli Houthi sequestrano 3 navi, di cui una saudita, nell'estremità meridionale del Mar Rosso. Iran, fine settimana di proteste per il rincaro del gas, 12 morti il bilancio ufficiale, molti di più per gli attivisti, parlano almeno di 40, mentre la guida suprema invita la gente a non scendere in piazza. Il governo ha deciso di versare a 20 milioni di persone i primi sussidi derivati dal contestato rincaro della benzina, poi sabato saranno coinvolti altri 40 milioni di persone. La misura è stata anticipata di 10 giorni, probabilmente per cercare di fermare la protesta, dove sono già state arrestate un migliaio di persone. Turchia, ieri il ministro degli esteri Cavusoglu ha accusato sia Russia che Stati Uniti di non aver rispettato i rispettivi cessate al fuoco con la Turchia, che non è riuscita ad espellere lo YPG curdo dalla zona di sicurezza della Siria settentrionale. Questo succede dopo l'attacco del fine settimana ad al-Bab, di cui i funzionari turchi hanno accusato lo YPG. Sebbene al-Bab non sia all'interno della zona di sicurezza, la Turchia sta enfatizzando l'attentato come prova che quelli dello YPG siano terroristi non tanto diversi da quelli dell'ISIS. Cavusoglu afferma che se nessuna delle due nazioni riuscirà ad espellere i curdi per loro, la Turchia è pronta a lanciare un'altra offensiva contro la Siria settentrionale, intesa ad agire contro la fazione curda. Non è chiaro quale sia la presenza dello YPG nel nord della Siria, sebbene la Turchia abbia chiaramente intenzione di lanciare l'offensiva militare contro di loro oltre la regione di confine di 30 chilometri. Siria, un'inchiesta del Middle East Eye ha rivelato che decine di cittadini di Trinidad e Tobago, tra cui 70 minori, sono bloccati nel campo di Alol, pericolosamente affollato nel nord del paese. Il ministro della sicurezza nazionale di Trinidad, Stuart Young, ha sollecitato cautela ma ha riconosciuto che la situazione è inquietante. Parlando domenica, Young ha affermato che il suo governo agirà in modo responsabile sulla base di fatti e prove. I messaggi audio ottenuti da Middle East Eye hanno rivelato che bambini trinidadiani nel campo gestito dai curdi avevano o pensavano di avere contratto malattie potenzialmente letali e desideravano disperatamente tornare a casa ai Caraibi. Ci sono circa 25 donne e 71 bambini di Trinidad e Tobago all'inizio di novembre, secondo i documenti. Pur avendo una popolazione di appena 1,4 milioni, si ritiene che Trinidad e Tobago abbiano contribuito al maggior numero pro capite di viaggiatori nei territori detenuti dal gruppo dello Stato islamico. Almeno 130 cittadini trinidadiani sono andati in Iraq e in Siria tra il 2013 e il 2016. Libano, i manifestanti si riuniscono intorno al Parlamento per impedire ai parlamentari di entrare. Trump non poteva fare più felice il premier israeliano Netanyahu, visto che per gli Stati Uniti gli insediamenti israeliani in territorio palestinese non sono più contrari al diritto internazionale. Infatti il presidente ha cancellato il memorandum Hansel, un parere legale del Dipartimento di Stato su cui si basava la politica americana sugli insediamenti dal 1978. Una mossa che mortifica ancora una volta le speranze palestinesi per uno Stato. La quarta convenzione di Ginevra è molto chiara sul fatto che gli insediamenti sono illegali, in quanto impedisce in modo esplicito a una potenza occupante di trasferire la propria popolazione in un territorio occupato. La posizione del segretario di Stato americano Pompeo è che la posizione degli Stati Uniti sugli insediamenti in Cisgiordania si basa su fatti unici. Pur non tentando di reinterpretare il diritto internazionale, il Dipartimento di Stato sostiene ora che il diritto internazionale non fa avanzare la causa della pace, quindi dovrebbe essere ignorato. Questo rafforza la posizione di annessione dell'estrema destra israeliana e dà una mano al premier Netanyahu in un momento in cui la sua sopravvivenza come primo ministro è in dubbio. E mentre i palestinesi accusano il colpo, l'Unione Europea ribadisce che le colonie israeliane sono illegali. La Giordania teme pericolose conseguenze dopo le affermazioni americane. L'ambasciata americana diffonde un'allerta viaggio per chi arriva a Gerusalemme, Cisgiordania e Gaza. E restiamo in Israele perché il sistema di difesa missilistica Iron Dome avrebbe sventato il lancio di 4 razzi intercettati al volo questa mattina, un attacco proveniente dalla Siria verso le alture del Golan. I residenti della zona si sono recati nei rifugi. Siamo tutti muat, esprimono solidarietà i colleghi di Amrnet, il fotografo che ha perso un occhio dopo essere stato colpito da un soldato israeliano durante uno scontro vicino a Hebron. 32 anni, freelance di un campo profughi vicino a Betlemme, stava coprendo le proteste nella cittadina di Surif insieme ad altri colleghi quando è stato colpito. Indossava il giubbotto antiproiettile con una visibile e inequivocabile scritta Press. Secondo Amnesty International e Human Rights Watch, l'Italia sarebbe corresponsabile delle violazioni dei diritti dei migranti da parte della Libia. Hanno presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani. Le organizzazioni umanitarie hanno anche ricordato che tutte le persone riportate in Libia vengono regolarmente sottoposte a torture, al trattenimento arbitrario e centri di detenzione. Georgia, migliaia di persone in piazza hanno chiesto le dimissioni del governo, la polizia ha circondato il Parlamento bloccandone l'accesso. Afghanistan, non c'è pace neanche per i risultati elettorali delle elezioni presidenziali tenutesi un mese fa. I sostenitori dei candidati ora impediscono alla commissione elettorale di contare i voti di ben 9 province del paese, organizzando proteste e bloccando le porte degli uffici della commissione. Domenica il capo della commissione aveva proprio annunciato il riconteggio dei voti di 8.255 seggi elettorali in tutto il paese. Pakistan, l'ex primo ministro Nawaz Sharif, che stava scontando una pena detentiva per corruzione, ha lasciato il paese per ricevere cure mediche a Londra. Sharif, 3 volte primo ministro, ha un disturbo del sistema umanitario e vari altri problemi di salute. L'alta corte di Lahore ha revocato il divieto di viaggio sabato e il governo ha dato il via libera ieri. Ma il governo di Imran Khan era stato riluttante a rilasciare Sharif. Voleva che firmasse un titolo di indennizzo del valore di 44 milioni di dollari prima di andare all'estero, ma il tribunale gli ha permesso di viaggiare senza fermare questo accordo. Hong Kong, l'Unione Europea ha chiesto a tutte le parti in causa di rinunciare all'inaccettabile violenza e all'uso della forza all'università. Manifestata anche la preoccupazione per le notizie che i medici che assistevano gli studenti feriti siano stati arrestati. Per gli Stati Uniti, contro i manifestanti è stata usata una forza ingiustificata. Intanto 100 al momento della redazione di questo notiziario, 100 ragazzi sarebbero ancora all'interno del sediati dalla polizia che ha circondato il campus. Intanto la legge contro il bando delle maschere è stata giudicata incostituzionale dall'alta corte, incompatibile con la legge. Da quando le proteste sono esplose lo scorso giugno sulla legge per l'estradizione, la polizia ha arrestato 4.500 persone. Giappone allerta per il vulcano Shimoe nel sud-ovest e non si placano gli incendi in Australia. Altre 4 persone sono morte, distrutte 500 case, 600 edifici per l'agricoltura. E andiamo verso la fine. Più di 4 miliardi di persone in tutto il mondo non hanno accesso ai servizi igienici e ai sistemi igienico-sanitari adeguati, lo dice le Nazioni Unite. Si stima che 432.000 persone muoiano ogni anno di diarrea a causa di rifiuti umani non trattati che entrano nel sistema idrico

Yves, Italia top a quota 100, la pensione 5 Stelle non si tocca, dicono il quota 100, a gennaio intanto le pensioni saranno rivalutate dell'1,1%. Questo è quello che segnala il Sole 24 Ore, che chiaramente vede, al di là della più che prevedibile e naturale opposizione decisa del centrodestra, che ha tutti altri orizzonti politici che sono legati alla flat tax, alla battaglia contro la tassa progressiva, eccetera eccetera, ma c'è tutto lo scannamento interno della maggioranza. Tasse sia l'appello del Premier, ma gli emendamenti sono 4.500, oltre 1.700 proposte dalla maggioranza, conferma anche la pagina del Corriere con Claudio Voltattorni. Scontro Salvini Palazzo Chigi sul fondo salva stati. Ecco, qui Salvini, come tra una cosa e l'altra, una fake news e l'altra, visto che come se non ce ne fosse abbastanza, ne tira fuori delle altre, che l'Italia aveva firmato, anzi Conte segretamente, un codicillo contro i salvastati in Europa, cosa che non è successo, perché se ne parlerà, la proposta c'è, viene avanti da molti paesi europei, nella prossima riunione europea. Ma Salvini in questo quadro ha buon gioco a dire una cosa e il suo contrario. Mettono tasse e poi le negano, il governo nel pallone totale, dice il Giornale. Invece di dire, beh, dal suo punto di vista abbiamo vinto, invece cercano di dire che anche se il governo fa una cosa che gli va bene, non va bene lo stesso. Persino il PD ha presentato 900 emendamenti alla legge di bilancio, solo Forza Italia ne ha presentati di più, 1.105, i renziani solo 240, le 4.500 proposte di modifica alla manovra della price tax alle auto aziendali presentate alla commissione di bilancio riflettono un dato di fondo: nessuno se la sente di mettere la faccia su questa manovra. Naturalmente, oltre che il numero degli emendamenti presentati, va da sé, c'è la qualità di emendamenti stessi. Un conto è la classica leggina, un po' salva proprio clientele, che non manca mai in manovra, un colpo, per un altro invece dare un colpo alla quota 100, che è una mazzata tremenda sull'asse di governo. Tant'è che Marco Travaglio parla di Ius Sola, che poi torneremo su questo argomento. Ogni tanto Salvini si sveglia nel cuore della notte tutto sudato. L'incubo ricorrente è che il governo Conte 2 faccia poche cose importanti e popolari, apprezzate anche dai suoi elettori, smette di litigare, duri 3 anni e mezzo e la costringa a girare l'Italia per altri 40 mesi urlando alla luna fake news, tipo le elezioni subito o l'invasione straniera, cioè ad arrivare spompate le urne del 2023. Poi però pensa alla sinistra italiana, che Travaglio chiama la salvinistra, che lavora indefessamente, anzi fessamente, per lui, ai 5 Stelle che si sparano sui piedi un giorno sì e un altro pure, e a Renzi che si agita come un ossesso per un misero 3-4% e si raddormenta sereno. Il brutto sogno non si avverrà Salvini mai, perché i suoi alleati sono i suoi migliori alleati. Siccome era un po' che non si parlava di migranti, per il calo degli sbarchi, l'aumento delle espulsioni, la Morgese zitta ne fa più di lui e si vuol poco, ci ha piaciuto il PD a risumandolo Ius Soli, cioè la legge che risponde ad una domanda giusta con una soluzione sbagliata. Infatti lo stesso PD ad accantonare i tempi di Gentiloni. Questa cosa la troveremo più avanti, perché parla di Ius Soli in campagna elettorale in Emilia Romagna, che è il cavallo di battaglia di Salvini, difficilmente sarebbe piaciuto al governatore Bonaccini, candidato al centro-sinistra. Infatti la cosa non si fa attendere. Corriere di Bologna, Bonaccini, Zingaretti, il grande gelo. Il governatore, lo Ius Soli, ci sono altre priorità, ed esulta per le 7.000 sardine a Modena, che anche oggi ritorno su molti giornali, di cui ritorneremo. Ma su questa salvinistra è chiaro che Renzi è uno dei maggiori protagonisti, e il Corriere ci dà questa intervista a Matteo Renzi, che in modo come sempre morale spregiudicato ricatta gli altri suoi colleghi e compagni di maggioranza, dice non si può andare a votare altrimenti vince il centrodestra e si decide, si prendono anche il colle quindi dovete subire tutti i miei attacchi. Al PD dico, dice oggi a Maria Teresa Meli, niente elezioni o regaliamo il colle alla Lega. Il leader d'Italia Viva, con noi il PIL cresceva ora a zero, il Premier sostenga il nostro sblocca cantieri. Insomma, Renzi ancora ricordo con nostalgia quando era Premier lui, non gli è ancora passata questa cosa. Ma Di Maio, visto che abbiamo parlato di Zingaretti e Bonaccini, sull'Emilia rischiamo tutti, il PD è il leader 5 Stelle, grave se perdiamo perché andate da soli, e lui avverte i consiglieri regionali. Sì, a proposito di manovra, tasse ma anche bonus per il resto del Carlino. In prima pagina, pioggia di novità, la maggioranza fa dietro front su plastica, zucchero e auti aziendali. Per i bonus gli sconti ed è un ossimoro per i profilattici e i pannolini. Quindi c'è sia per la prevenzione sia per chi ha dei bebè in questo caso. Ce n'è per tutti, ma ce n'è per tutti veramente. Raffica di 4.500 emendamenti, il Colle lancia l'allarme sui conti. Siamo a pagina 2 del quotidiano Felsineo. Alta tensione nella maggioranza che presenta la metà delle proposte di modifica. Il premier promette cambiamenti, sto lavorando per abbassare le tasse. Questo è quanto vi ripreso anche dalla Stampa. Senato, pioggia di emendamenti, il governo riscrive la finanziaria. Solo 200 milioni per accoglierle, presentate 4.550 modifiche, 1.700 dalla sola maggioranza. Questo invece arriva dalla Stampa di Torino. Repubblica lo mette come titolo principale, invece un'intervista a Zingaretti che di analisi per quanto riguarda tutto quello che riguarda gli argomenti principali, il segretario PD dice: troppe liti, l'esecutivo rischia se non diventa alleanza vera. Ius Cultura, andiamo avanti. Manovra, riportati i dati anche da Repubblica. In ogni caso, dice, l'Europa dirà sì. Andiamo all'Interno, dove le analisi proseguono. Zingaretti: il governo trovi l'anima e noi e Di Maio affonderemo assieme. O noi e Di Maio affonderemo assieme se il governo non trova questa famosa anima. Dalle piazze di Bologna e Modena va difesa l'autonomia, ma noi riflettiamo sul distacco dai partiti. Sullo Ius Cultura forse non ci sono le condizioni oggi, ma la battaglia andrà avanti in Parlamento. A Renzi, di cui si parlava in precedenza, dico: non si costruisce un partito solo contro gli altri. Così, dice, dimostra la sua debolezza. Il caso di Tommaso Cirria con l'allarme di Bonaccini e Di Maio ripete sconcertato: Ius Soli, la freddezza del premier e dei Dem di fede giallo-rossa. Chiudiamo con il Manifesto, visto che siamo in casa PD. A pagina 4 l'intervista a Goffredo Bettini, europarlamentare del PD, che dice: sì allo Ius Cultura, ma non useremo la clava per ottenerlo. Movimento 5 Stelle non vuole un'alleanza stabile, purché non la voglia instabile. Ora il nuovo PD sarà più a sinistra, punto di domanda, sarà più vicino alle persone, un lento adagio che abbiamo già sentito più volte. Del resto, la vocazione maggioritaria del partito, ma scindere l'automatismo fra segretario e candidato premier non è chiudersi in se stesso e aprirsi con più credibilità alle alleanze. Arriviamo allora alle riforme. Sulla cittadinanza al PD rallenta, dopo Di Maio anche i renziani frenano. Questo a pagina 5 del Manifesto, per proseguire insomma la nostra rassegna dedicata a politica interna e alle riforme. Intanto a pagina 5 però l'argomento fa presto ad arrivare a Modena, sempre dal Manifesto. Anche a Modena sono migliaia le sardine contro Salvini and Company. Dopo Bologna, bis del successo del flash mob antilega, Zingaretti dice evviva e anche Bersani esulta. E allora anche il Corriere dice: Matteo Salvini mai avrebbe pensato e mai ammetterà di doversi preoccupare delle sardine. Devo dire che nei suoi piani elettorali le sardine proprio non entravano neppure nelle più lontane ipotesi. No. Eppure il secondo successo del movimento dei senza bandiera antilega ieri a Modena esige una revisione della comunicazione. Infatti, e adesso da un atteggiamento finto fair play come tutto Bologna, è passata invece la classica aggressività di Salvini, perché a Modena accusi i manifestanti post violento contro di me. Quindi oggi è un po' bastato il tiro, non è più Macron, non è più la Merkel, neanche Soros, sono le sardine, il nemico. Dunque, poi c'è contemporaneamente un tentativo di presentarsi come normalizzato, pronto a fare il premier, per cui Salvini da Zuppi le mosse con la Chiesa. Salvini approfitta che la Chiesa non chiude le porte a nessuno, anche ai peggiori peccatori, per incontrare Zuppi, che intendente ha ben altro atteggiamento su molti terreni. Ma si parlava delle Salvine, delle sardine, mentre il Corriere parla che cos'è il flash mob, mi chiama il fish mob evidentemente. Anche il Corriere, con foto molto eloquente, di fronte alle 400 persone di un ristorante presenti a sentire Salvini che ha rinunciato appunto a entrare a Modena per paura delle terribili sardine, l'iniziativa raccontata da Francesco Battistini, con tanto di foto, dicevo, dal Corriere: bis delle sardine con 7.000 ombrelli, c'era una pioggia battente, ma si dice che le sardine hanno le branchie, quindi non è un problema. Andiamo avanti fino a Palermo. Piovono sardine e PM, dice il Fatto Quotidiano, che un po' di M ce lo mette sempre, un po' di PM. Comunque, Modena in migliaia contro Salvini, lui si chiude in un locale con pochi intimi. Fondazione Più Voci svolta nell'indagine. Perché cominciamo prima dai PM per un attimo e allora andiamo alla questo tema che viene assegnazione dubbia, questo è un tema che riguarda la magistratura e che ci va appunto nelle tante inchieste che riguardano la Lega in questi giorni, e quindi dal Fatto Quotidiano, Guardia di Finanza, 14 bonifici sospetti per dare soldi alla Lega, e che si aggiungono a tutti gli altri che abbiamo visto fino adesso, i 43 milioni di euro, quelli rubi. Oggi invece Lega, 14 operazioni sospette, attività finanziaria anomala, un'inchiesta sul tesoriere del partito Giulio Centemero, al punto della finanza, i passaggi di denaro da una società a quell'altra, maestri delle scatole cinesi. C'era un'altra inchiesta stamattina che riguarda i migranti, Open Arms, Salvini indagata da Agrigento, leggo da un flash d'agenzia. Matteo Salvini è indagato per le procure di Agrigento. Le ipotesi di reato sono di sequestro di persone e omissione di atti d'ufficio, come già in precedenza per altri casi analoghi. La vicenda risale allo scorso agosto, riguardo il caso dei 164 migranti rimasti per 19 giorni a bordo dalla nave Open Arms davanti alle coste di Lampedusa, il bis del caso Diciotti. Il fascicolo, continua il flash d'agenzia, è ora sul tavolo del procuratore di Palermo, Francesco Lovoi, che farà le sue valutazioni con e dentro 15 giorni lo invierà al Tribunale dei Ministri. Questo IPM. Ma vengo invece alle sardine, che mi stanno molto più a cuore, perché è bello vedere un sovranista smentito dal popolo, cioè quello a cui sempre si appella, no? La gente, la bella gente ha aperto gli ombrelli e invaso la piazza grande di Modena. Inizialmente aveva visto una piazza piccola davanti alla sinagoga per solidarietà con Liliana Segre, i post violenti contro di lei, ma poi visto l'afflusso delle persone si è dovuto andare a piazza grande. Quindi questo è il quadro che viene poi segnalato con molta evidenza anche all'interno, e anche il fatto che ci dovrà metterlo in conto Salvini le sardine, perché Firenze già boom di richieste per il 30, hanno aderito su Facebook in migliaia in tutta la regione, da decidere solo la location. L'organizzatore si chiama Bernardica, 21 anni, leader del Parlamento degli studenti toscani. Ma non solo, andiamo più a sud, perché a Sorrente sbarcano le fravaglie, perché dice la versione di costiere dei pesci bolognesi, siamo più piccoli, buoni e croccanti. C'è anche un po' di nazionalismo tra un pesce e quell'altro, si sa. Il leghista sarà accolto con una canzone ironica e senza simboli di partito. Insomma, quello che era un movimento ormai si sta trasformando in una corrente, la corrente dei sargassi. Una sardina e due sardine si inventarono una maniera per entrare in una scarpa e ci ci ci chihuahua e wow wow wow cici e adesso lo ripetono due sardine e tre sardine si inventarono una maniera per entrare in una scarpa e ci ci ci chihuahua e wow wow cici e adesso lo ripetono tre sardine. E tra una sardina e quell'altra, allora bisogna avere le branchie, perché l'Italia è davvero sotto l'acqua, continua a piovere evidentemente, e con tutti i problemi a seguire. Per esempio, nuova allerta nel maltempo, dice il giornale, Trino deraglia in Valpusteria, un altro ennesimo momento di comunicazione di mobilità che è fermo. Una frana ha interrotto la linea dalla Valpusteria a Rio Puste, lo smottamento è venuto ieri mattina presto al passaggio di un treno, un passeggero è stato portato in salvo dai vigili del fuoco volontari senza portare ferite. Insomma, è andata fatta bene, ma è il caso di dirlo, uomo avvisato, salvato fino a un certo punto. Non solo la neve in alta montagna, cosa che evidentemente non stupisce a fine di novembre, ma andiamo al sud, il lungomare di Napoli invaso dalla plastica, perché le mareggiate hanno parlato delle schifezze che vengono disperse nel mare, che la natura ce l'ha restituita, le rimandate al mittente, come dire. Toscana 2000 sfollati, questo è il Corriere con Alessandro Fullotto. notte e fulloni. Allerta maltempo, slavine mareggiate in tutta Italia. Ad Alto Adige deraglia un treno, a Venezia cala la marea. Ma per domani è previsto un ritorno. Tant'è che Emilio Sgro ricorda la vecchia alluvione del 66, io siciliano, e quelle gondole spiaggiate nel 1966. E i predoni ambientali, la cavia San Marco, Salvatore Settis dal Fatto Quotidiano. Quello che sta accadendo a Venezia è una tragedia, ma anche non è una sorpresa. L'onda di marea ha invaso la Basilica di San Marco, che John Ruskin vedeva quasi come l'orologio o il termometro del mondo, tanto immenso e prezioso il patrimonio d'arte e il memoriale che si racchiude. Qui l'allarme è scattato molto prima dei cambiamenti climatici, ma la soluzione Moses è attuata con sprechi e corruzione. L'opera è ancora ferma, le prossime emergenze saranno il terreno di caccia di corruttori vecchi e nuovi. Sì, perché questo appello finirà in Moses, che ci vogliono 300 milioni credo per completare, perché dice, abbiamo già fatto l'87%, no, il 97%, allora dice, ma quanto è speso questo? Se il 3% sono, ma facciamo un calcolo, ci gira la testa. Comunque, sul Mose pende una scura da mezzo milione di euro. Dunque è in tribunale la babele delle cause giudiziarie, perché non è che finisca questa vicenda. Venezia Nuova, il consorzio deve affrontare alcune azioni risarcitorie imponenti divise in quattro filoni. E la grande opera, secondo Pancio Pardi, è uno, al tempo fu famoso per i girotondi, quelli benedetti anche da Nanni Moretti, ma sono tanti anni fa. È tornato a scrivere sul Fatto Quotidiano: siamo sicuri che convenga finirlo. La barriera richiederà una continua e costosissima attività di manutenzione. Sì, il maltempo non abbandona l'Italia. Pagina 13 della Stampa: in arriva pioggia, neve e vento. Allerta dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia. In Alto Adige una frana fa deragliare un treno. Da Confagricoltura altri danni. Stima danni per 500 milioni nel settore. Le immagini dei disastri che hanno colpito il lungomare Carracciolo a Napoli, che fra l'altro ha portato sulla riva di ogni cosa. Dove invece c'è stato un lavoro di manutenzione che a quanto pare è servito e come, è il canale sull'Arno, che evita l'incubo dell'inondazione. Lo scolmatore era stato usato nel 2014. L'opera ha salvato Pisa dalla piena del fiume. Sì, è la Stampa che riporta tutto ciò. Così il sistema Arno ha salvato Pisa dalla nuova alluvione. Passiamo allora a Repubblica, che dice: la lezione della Toscana, Arno in pieno, fermato dai lavori sugli argini. Quindi si tratta di manutenzione, di semplici lavori sugli argini da fare, da seguire, non inventarsi una grande opera che fermi il mare. È tutto un altro concetto, eh? Disastro evitato grazie alle casse di espansione, che non mi sembrano questa invenzione vinciana, ma ne servono ancora molte, certo. Anche perché il clima è sempre più incontrollato. Grosseto, il vento batte mille pini all'Argentario, e riporta anche Repubblica che il treno deragliato in Alto Adige. Siete inerti, no? Voi fate ostruzionismo, e lo scambio di accuse che ha bloccato il Mose. Pensavo alla stessa cosa anch'io questa mattina. Manca il 4-5% per completare e chiedono una quantità di denaro incredibile. Tutto questo poi, pensando a una totalità dell'opera, veramente è da capogiro. Ecco il carteggio tra provveditore e consorzio sui fondi per completare quest'opera, questa famosa opera. Come triste Venezia, è un capitolo del Manifesto che purtroppo troneggia nelle prime pagine. Siamo sul Manifesto: dopo il picco alta marea di domenica, la laguna prova a rialzarsi. Pensate che è già causa anche negli ospedali. La Serenissima conto i danni, emergenza fuori dall'acqua. Acqua alta, una passerella elettorale tira l'altra, buone soltanto per comparire in TV. Smottamento Italia, bombe d'acqua, frane, allagamenti, tutte le cifre inquietanti che vengono riportate a pagina 9 del Manifesto. Dal Veneto alla Toscana, la paura dall'Arno da Firenze si sposta a Pisa, e in Alto Adige abbiamo già letto del treno deragliato. Bufera intanto si prevede anche nel Friuli. E il Gazzettino, il giornale del Nord-Est, è chiaramente molto preoccupato per Venezia, e c'ha ragione. Perché, per esempio, il bilancio: San Marco, prima vittima, antico mosaico perde pezzi. Speriamo che il restauro possa recuperare questi tasselli. Poi Veneto, allarme pioggia, Zaia, danni incalcolabili. Naturalmente vorrei segnalare, en passant, secondario, però ogni tanto un po' di riflessioni vanno anche fatte, che questi sovranisti che vogliono autonomia regionale, quando però ci sono i disastri, lo Stato viene buono, ma e chiedono giustamente calamità nazionale, ma no, o una cosa o l'altra. Ma veniamo invece al titolo principale d'apertura del Gazzettino che stiamo leggendo nel suo frontespizio. Mose, il commissario accusa, non è le Maigret. non è neanche Schiavone, è il commissario che è quello che sovrintende l'opera. Uno dei due gestori attacca: anche dopo il 2014 le imprese incassavano utili del 50%, quindi voi capite che, come si diceva prima, nonostante lo scandalo sia ampiamente al sole, è il caso di dirlo, nonostante le nuvole, questi continuavano a far sui soldi. Fiengo dice errori nei progetti e nei materiali. E poi c'è anche il baby Mose, perché che visto che quanto costa il babbo Mose, anche il piccolo Mose forse, e a Chioggia scoppia il caso del baby Mose. Insomma, questo è il quadro che arriva da Venezia. Venezia che muore, Venezia appoggiata sul mare, la dolce ossessione degli ultimi suoi giorni tristi, Venezia la vende ai turisti. E cercano in mezzo alla gente l'Europa o l'Oriente, e guardano alzarsi alla sera il fumo o la rabbia di Porto Marghera. Stefania era bella, Stefania non stava mai male, ma è morta di parto gridando in un letto sudato d'un grande ospedale. Aveva 20 anni, un marito e l'anello nel dito. Mi han detto confusi i parenti che quasi il respiro è inciampato nei denti. Venezia è un albergo, San Marco è senz'altro anche il nome di una pizzeria, la gondola costa, la gondola è solo un bel giro di giostra. Stefania d'estate giocava con me nelle vuote domeniche d'ozio, mia madre parlava, sua madre vendeva Venezia in negozio. Venezia è anche un sogno di quelli che puoi comprare, però non ti puoi risvegliare con l'acqua alla gola e un dolore a livello del mare. Il doge ha cambiato di casa e per 1000 finestre c'è solo il vagito di un bimbo che è nato, c'è solo pena di mestre. Stefania affondando, Stefania ha lasciato qualcosa, novella 2000 e una rosa sul suo comodino, Stefania ha lasciato un bambino. Non so se i parenti gli ha fatto davvero del male, vederla morire ammazzata, morire da sola in un grande ospedale. Venezia è un imbroglio che riempie la testa soltanto di fatalità, del resto del mondo non sai più una sega, Venezia è la gente che se ne frega. Stefania è un bambino, comprare o smerciare Venezia sarà il suo destino. Può darsi che un giorno saremo contenti di esserne solo lontani parenti. Guccini canta Venezia, e andiamo allora al tema della deindustrializzazione del nostro paese e dell'affidamento di settori strategici come l'acciaio a multinazionali che sono, si sa, locuste. E oggi impariamo, solo oggi, che l'ArcelorMittal, la multinazionale franco-indiana, dovunque va, devasta i territori, chiude e come locuste lascia solo un deserto arido. E complimenti a chi al suo tempo, compreso Calenda, siglò l'accordo con ArcelorMittal. Veramente grazie, grazie a nome di tutti gli italiani, Calenda. Corriere della Sera, Ilva, l'altoforno resta acceso. Mittal vedrà Conte, Mattarella preoccupato, si rischia una bomba sociale. Questo è il Corriere della Sera in apertura. Manovra, sì della maggioranza all'appello del Premier per abbassare le imposte sulle auto. Ma il Corriere, come sempre, fa un tutt'uno. I giornali d'Italia parlano di questa vicenda della Mittal che sembra fare un mezzo passo indietro di fronte anche all'attività della magistratura. E anche di questo mezzo passo indietro non lo dice il Corriere della Sera, dico mezzo perché io non mi fido degli achei neanche della Mittal, anche se portano doni. Ritromarcia all'Ilva, l'altoforno resta acceso, la decisione dopo un ordine del giudice di Milano. Si rischia una bomba sociale. L'allarme del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il capo del governo Conte, se venerdì vedrà Mittal, cassa integrazione, a incentrare tentativi per evitare la lite giudiziaria. Il gruppo è irritato verso la Morselli, questa delegata, che questa CEO italiana, che rispondendo agli ordini dell'ArcelorMittal ha detto buona, noi chiudiamo, andate al diavolo, adesso la Mittal deve fare un passo indietro. Il giudice ferma Mittal, dice il Fatto Quotidiano. Si indaga per bilanci truccati e bancarotta, avanti così. La procura accelera e sente i primi testimoni, il tribunale civile ordina non spegnete i forni, tant'è che anche gli operai hanno detto che si sarebbero resi insubordinati e non avrebbero fatto spegnere i forni, perché se spegni i forni di un alto forno puoi riaccenderlo, è davvero complesso e costosissimo, tant'è che Silva non si spengono gli alti forni, l'operaio dice nel caso ci hanno lasciato a noi il cerino in mano, perché è il caso di dirlo, quindi bonifiche e riparazioni è tutto fermo da mesi. E quindi dimostrazione che non ha fatto lo scudo penale, volevano chiudere da un pezzo. Contestazioni su manutenzione rispetto al piano ambientale, ora si scopre che l'altoforno 2 non deve chiudere. E allora i commissari vanno anche oltre Italia, puntano a chiudere come fecero a Bucarest, quindi c'è un precedente, chi ha fatto il contatto con loro non sapeva di questo precedente. I commissari ricordano il caso rumeno ad 8.700 operai, si dà fiato a chi diceva che compravano per uccidere la fabbrica. Strane coincidenze, segnala il Fatto Quotidiano. L'affare concluso a una lettera di Blair, rifinanziato con 125 sterline, Anastase. Questo è anche tutto quello che corre sotto traccia inevitabilmente tra chi sigla queste pattuizioni. L'autogol del Mittal armi PM, dice il giornale. Si muove la procura milanese e per una volta il giornale non è contro i magistrati, strano a dirsi ma è così, perché Laura Luca Fazzo dice chissà se i vertici di ArcelorMittal sono resi conto di essersi dato una martellata sui piedi, ogni tanto anche loro sbagliano, il 12 novembre quando hanno depositato al Tribunale di Milano la loro richiesta di dichiarazione decaduto di loro di dichiarare decaduti il loro contratto per gestire l'Ilva di Taranto, è stata quella mossa ad aprire di fatto le porte d'ingresso alla vicenda dell'Ilva della magistratura milanese, che vi ha fatto irruzione con la sua potenza operativa e oltretutto libera dai condizionamenti ambientalisti grillini che in qualche modo pesano sulle scelte della procura di Taranto. Addirittura qui il giornale per l'occasione assolve la magistratura dicendo che è lontana dai grillini, ma è un po' in difficoltà il Sole 24 Ore, che si era schierato sicuramente con ArcelorMittal per l'inevitabilità del mercato, oggi invece un po' balbetta. E allora abbiamo quando la politica non c'è, Marco Bentivogli, un vuoto colmato dai magistrati, un governo deve essere garante ma cessa di essere tale cambiando le norme ogni 6 mesi. Sì, a proposito di doni, altro che Ilva travolta dai debiti anche per quanto riguarda quello lasciato da ArcelorMittal, stavolta salta tutto se non arrivano i soldi, perché c'è un indotto ovviamente, come comprensibile, dietro un grande affare così complesso dove tanti partecipavano dalla media, piccola impresa, no? Tutti questi sono a credito per quanto riguarda i lavori iniziati, i progetti, gli impegni, l'ira dei fornitori stavolta salta tutto se non arrivano i soldi. A Taranto la protesta dei 6.000 lavoratori dell'indotto e ovviamente queste aziende hanno dei dipendenti che si trovano in condizioni quanto mai precarie e in difficoltà. Dal manifesto parlavi di un cerino che resta in mano agli operai, la fiammella dell'ex Ilva, ArcelorMittal annuncia l'altoforno 2, per il momento resta acceso, venerdì un nuovo incontro con il governo. Affonderia, i leader sindacali da Mattarella, Landini dice ora è il momento della responsabilità. Le aziende dell'indotto, Mittal ci paghi le fatture, mi ricollego all'argomento presente sulla stampa. Le imprese vantano crediti per circa 60 milioni e come vi ho detto cosa fanno? La pagano gli operai, minacciano licenziamenti. Questo è il quadro che arriva anche dal manifesto. Prendiamo Repubblica perché parliamo anche di altre realtà legate al lavoro. Intanto in questo caso vediamo questa cronaca, pagina 17 di Repubblica: addio al lavoro nero, tutti assunti, gli operai del Cavò escono dall'ombra. Si sta parlando del tessile e della moda, dove veramente per quanto riguarda le irregolarità ce ne sono a bizzeffe, non solo lì. Però Melito al via la regolarizzazione dei dipendenti, pensate, trovati chiusi in un seminterrato durante i controlli dei carabinieri, la donna incinta che tagliava pelli per le grandi griff senza tutele. A tale proposito dice: una rinascita, ma il futuro resta assolutamente un'incognita. È un pianeta sommerso, se ne parla poco. Infatti sono 8.000 le aziende della filiera della moda in Campania, 37.000 gli addetti nel settore sono impegnati a vario titolo, circa 37.000 addetti. L'8,5%, e non è poco, e l'incidenza del lavoro nero sul PIL è dell'8,5%. Queste sono le cifre, insomma. Quindi, detto tutto, detto per la cronaca, anche uscendo da quello che è il contesto lavorativo, troviamo un altro contesto, che è quello di polemica per quanto riguarda la casa dell'ex ministra Trenta. A 540 euro al mese dice: io resto, addirittura indaga la procura militare. Il Giornale ne fa un peana grandissimo in prima pagina, occupa tanti spazi per questo, per questa polemica, ecco, chiamiamola così, che vede protagonista la ministra Trenta. Sì, la Trenta occupa con la K la casa Scrocconi 5 Stelle. È un brutto addio dell'ex ministra, che pure si era comportata bene come ministro dell'interno, e adesso invece, avendo dichiarato io ho tante relazioni, mi serve una casa grande, direi che ha buttato nel cesso tutto ciò che la reputazione che si era fatta. L'ex ministra non molla l'alloggio di lusso, mi serve per incontri di lavoro. E allora, su questo ci specula chiaramente la destra, la verità esce con la Trenta utilizzava la supercasa del ministero per incontri segreti, quindi non l'ha migliorata per questa affermazione della Trenta. E qui naturalmente quei privilegi, uno schiaffo, l'esercito si ribella. Per esempio il Giornale ci richiama sopra, uno schiaffo che rischi la vita in Iraq. Non so chi è in Iraq in missione, quanto gliene frega dell'appartenenza della Trenta. Comunque, Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia: il ministro toccava un alloggio più piccolo, perché a seconda del grado c'è l'alloggio, no? Il predecessore, scelta inopportuna. Il predecessore sarebbe appunto Ignazio La Russa. Su Trenta indaga la procura militare, l'iter per la casa è deciso in 2 giorni. Il coniuge lavora per il generale promosso da lei quando era ministro. E il Fatto Quotidiano, che sposa le tesi di Maio: Trenta lascia l'appartamento, dimettiti. E torna sul caso, assegnazione dubbia, meglio il trasloco, questo è il commento di Marco Lillo, e poi una bella asta per questa casa, e quindi si chiuderebbe le vicende. Ma suo marito, che è l'assegnatario, il maggiore Passarelli, il maggiore rassicura la consorte: fatti una passeggiata, ci penso io. Non posso parlare, dice i cronisti, sono militari, mi puniscono altrimenti. Questo è quello che viene fuori da questa vicenda. Mentre, e siamo allora in termini di cronaca italiana, abbiamo si torna all'Ilva, perché il dossier segui soldi, in riva la lezione milanese che spaventa Arcelor. La caccia alla procura lombarda, il tesoro degli ex padroni di Taranto, ha fruttato 1 miliardo per le bonifiche. Quindi far pagare gli evasori, perché ed è importante segnalare questa cosa, perché sembra da ultimamente che i Riva fossero una vittima della magistratura, i poveri Riva che non potevano investire in Italia. E allora ancora di Ilva parlano i giornali, ne parla chiaramente il Mattino di Napoli, preoccupato per il sud intero. Ilva Mittal riapre la trattativa, ma anche il Messaggero di Roma, che più o meno in consonanza di titolo: Ilva, Conte tratta con Mittal. Oppure possiamo guardare la Gazzetta del Mezzogiorno, assai ancora più preoccupata, ex Ilva il controordine di Mittal, o Ilva dice il Secolo XIX, il tribunale in campo, gli altoforni non saranno spenti. E ancora altri giornali ci parlano di questa vicenda, o anche altre vicende legate ai settori strategici. Ne segnalo una, per esempio, una che è quella dell'Unione Sarda: metano, la rabbia dei sindacati, un duro attacco al governo dopo il no del ministero alla dorsale sarda. Ecco, il metano potrebbe essere una soluzione, invece di energia, invece si nega con questa dorsale sarda negata. Mentre proprio sulla pagina dell'acciaio di Ilva e quant'altro, contropiano suona una musica diversa dagli altri giornali. Tutti alla corte dell'acciaio ad ogni costo, dice contropiano giornale online comunista, ma così muore Taranto il 29 novembre e sciopero generale. Parliamo dei sindacati extraconfederali. La scelta, che al momento pare irreversibile, del colosso italiano di revocare l'inserimento degli investimenti in Italia, ha messo tutti davanti alla necessità di dare una risposta alternativa che non aveva mai davvero preso in considerazione alla questione del gruppo siderurgico. L'orientamento che accomuna tutti questi soggetti, cioè governo, sindacati confederali e Confindustria, è quello di garantire la produzione dell'acciaio a prescindere. Non solo non c'è nessun ripensamento autocritico rispetto alla disastrosa scelta politica di svendere i gruppi privati dopo la logica esperienza della famiglia Riva. ArcelorMittal viene accolta a Gisele Guida da Confindustria, del governo Gentiloni e dall'ex ministro Calendo come salvatore della patria, si ricorda. Appare inutile sottolineare, dice ancora Contropiano, come in poco più di un anno tali scellerate certezze sono sciolte come neve al sole. Eppure, nonostante l'evidenza dei fatti, il disegno criminoso come entro i lavoratori ex Ilva e i cittadini di Taranto trova nuova linfa nel tentativo di garantire la continuità della produzione dello stabilimento. E qui si accusano i sindacati in confederale di stare al gioco, un annuncio tanto sovversivo quanto solo mediatico, in primo luogo perché ArcelorMittal non ha mai dichiarato, si esclude la AFO2, sul quale pende giustamente l'obbligo di fermo della magistratura, di voler spegnere tutti gli altri forni, ma semplicemente voler ributtare al minimo tecnico per la loro riconsegna all'amministrazione straordinaria. In secondo luogo, Fium e Will sanno bene che senza approvvigionamento costante delle materie prime la insubordinazione declamata è uno zero al quadrato. Quindi l'USB dichiara uno sciopero 29 novembre con manifestazione nazionale a Taranto, iniziativa di lotta descritta come disposizione di tutti coloro che rivendicano il diritto a un'esistenza dignitosa e contro chi pretende di impedirci di aprire finestre nelle giornate di vento. Insomma, sostanzialmente si chiede la riconversione dell'azienda. Sì, certo, a proposito, tornando all'argomento casa, ben più importante l'argomento a pagina 7 del manifesto. Emendamento 5 Stelle, la Chiesa Cattolica paghi gli arretrati dell'ICI dal 2006 al 2011. Lo chiedono anche alcune sentenze dell'Unione Europea, l'ultima è del novembre 2018. Siamo a pagina 7, come dicevo, del manifesto, la Chiesa Cattolica paghi gli arretrati dell'ICI 2006-2011, mai versati, e l'IMU sugli immobili dove si svolgono attività non di culto ma commerciali. In effetti lo prevede un emendamento alla legge di bilancio presentato in Senato dal pentastellato Lanutti, che rimodula un decreto di legge già depositato a Palazzo Madama un mese fa dai senatori 5 Stelle. In realtà, sì, come dice giustamente, non c'è nulla di nuovo, quasi indubbiamente, però si rimette sul tavolo un nodo mai sciolto. E chi sarà mai quando verrà sciolto, appunto, questo argomento molto molto spinoso? Ma a proposito di argomenti che inquietano, dopo la condanna dei due militari per l'omicidio preterintenzionale del geometra romano, stiamo parlando di Cucchi. Ilaria Cucchi querela Salvini, lui molla i carabinieri e si butta sulla droga. Il leader leghista: sono tranquillo, ora il Parlamento approvi la nostra legge droga zero. Ecco, quindi questi sono i contenuti di risposta. Il signor Matteo Salvini non può giocare sul corpo di Stefano Cucchi, non posso consentirglielo. Ilaria Cucchi e la sua famiglia hanno subito di tutto in questi anni trascorsi a lottare per ottenere giustizia e minacce, offese, fake news. La sorella del giovane geometra romano arrestato il 15 ottobre 2009 per spaccio è morto una settimana per le conseguenze del pestaggio subito. In 10 anni ha querelato ed è stata pure querelata, ma la maggior parte delle volte ha dovuto sopportare senza potersi difendere per vie legali, perché la macchina del fango, come d'altronde quella dei depistaggi, si mette in moto nell'ombra e all'anonimato e nel vuoto di una verità giudiziaria assolutamente tardiva. E da qui si prosegue, insomma, con l'analisi che viene a pagina 6 del manifesto. La parte di Repubblica che invece ci fa da collegamento, se vogliamo, anche con gli esteri, ma si parla di Italia, a pagina 13 parliamo di Silvia. Un anno senza Silvia, la sorella non si arrende, crediamo nello Stato. Domani l'anniversario del rapimento della cooperante italiana in Kenya, dalle indagini molti sospetti ma ancora nessuna certezza. Avete capito che sto parlando di Silvia Romano, 24 anni, volontaria milanese dell'Onlus Africa Milele, rapita in Kenya un anno fa da un gruppo di uomini armati. Parlando di comunicazione, si parla molto di questo TikTok, questo social cinese più in voga del momento, definito da Giorgio Coluccia questa mattina dal giornale Viaggio nell'oscuro e oscurato del social cinese. Quindi chi gestisce, se finché sono gli americani va benissimo, se sono i cinesi non va più bene. E non si dice peraltro che il gruppo di Salvini, la famosa bestia che cura la sua immagine, si è buttata anche sui TikTok. Non gli fa schifo la Cina in questo caso, come non gli fa schifo neanche Facebook. Comunque, invece parliamo di informazione. E lo facciamo con Radio Bullet, che voi ben conoscete perché apre sempre la nostra Radio Zanardi, nel progetto giornalistico sulla cronaca internazionale che ascoltate ogni mattina, infatti qui, proprio qui nella nostra trasmissione, che lancia un crowdfunding per continuare ad esistere. Ai nostri microfoni Barbara Schiavulli racconta perché è importante fare giornalismo sulla scena internazionale e spiega anche come sostenere questa realtà indipendente davvero così importante. Siamo arrivati a un punto, lavorando alla radio ormai da 3 anni, in cui le cose bisogna cominciare a farle sul serio. La testata è seguita, noi facciamo podcast e testi, quindi notizie, storie, reportage, però per campare lavoriamo più o meno 12 persone, quasi tutte donne, abbiamo anche una bella quota blu di 2 giornalisti maschi, però serve che il nostro tempo venga ripagato, quindi abbiamo chiesto ai nostri sostenitori, a chi ci ascolta, a chi ci legge, a chi forse ancora non ci conosce, di aiutarci a mandare avanti una testata indipendente che racconta storie e notizie che di solito non si trovano sui media tradizionali. Bastano 50 euro all'anno, sono 4 euro al mese, non solo per avere questo tipo di progetto e poterne usufruire, come riescono già gli ascoltatori di Bologna, ma perché è importante sapere cosa succede nel mondo. Tu hai sottolineato che siete una realtà indipendente, quindi insomma non avete finanziamenti da grandi gruppi che magari poi vogliono condizionare quello che dite. No, esattamente, non abbiamo un editore, noi siamo tutti giornalisti che lavorano da tanti anni nel mondo della stampa tradizionale, però ci siamo messi insieme perché un po' frustrati da quello che sta avvenendo, dove i giornali si leggono meno e le notizie sono più o meno sempre le stesse, mentre succedono tante cose che meriterebbero di essere raccontate. Parlo di approfondimenti, di reportage, di storie che da noi magari durano una settimana, tipo la questione curda e poi non se ne parla più, o il Venezuela che se ne parla per un po' e poi non se ne parla più. Invece noi nel notiziario continuiamo a raccontare tutti i giorni, mantenendo quel filo diretto che è il mondo. Tu che hai girato appunto mezzo mondo, ti faccio questa domanda, è sempre così? Cioè anche all'estero le testate giornalistiche hanno scarsa attenzione per quello che accade al di fuori dei propri confini? Assolutamente no, se penso ai giornali inglesi e ai giornali anche spagnoli e francesi c'è una cultura completamente diversa. Noi paghiamo un po' il fatto di non avere una politica estera, perché ormai sono tanti anni che l'Italia, a parte forse il settore militare, non fa chissà che nel mondo, mentre gli altri paesi sì, sono presenti nel bene e nel male, quindi questo un po' ci penalizza. L'altra è la crisi economica che ha colpito tutti, quindi anche i giornali, ha fatto sì che in altri posti si scegliessero la qualità, quindi magari facciamo meno ma meglio. Da noi invece è stato il fast food della notizia: meno pago e più do, però nel momento in cui paghi meno la qualità scade, e questo lo si vede tutti i giorni, visto che i giornali che una volta erano importanti adesso magari diventano domenicali oppure pagano sempre meno. In Italia molti non sanno che un giornalista locale che lavora in cronaca viene pagato anche 3 euro a pezzo, che è una vergogna inaudita. Tu nel pezzo che citavo prima sottolinei come nello staff di Radio Bullets ci siano giornaliste e giornalisti che hanno vinto anche dei premi, ma i premi poi però, come dire, non aiutano a pagare le bollette, non aiutano a campare. No, il premio è una cosa bellissima perché ti dà quel riconoscimento di cui tu spesso hai bisogno, magari stando anche in zone a rischio. Penso a me che tanti anni in Iraq, in Afghanistan, quando arriva un premio ti sembra una cosa bellissima. Di fatto però non ci faccio niente, prendono polvere. Non è che siamo un paese in cui dicono lei è molto brava e quindi l'assumiamo. Questo è un paese che ti assume se sei il figlio di qualcuno, se conosci qualcuno, se sei legato alla politica oppure fai l'amante. Io queste cose non le ho mai fatte e nessuna di Radio Bullets l'ha fatta. Certo, è per questo quindi che se ascoltatrici e ascoltatori apprezzate un lavoro di tipo diverso come quello di Radio Bullets, potete sostenerla. Come si fa? Allora, è semplicissimo, basta andare sul nostro sito che è Radio Bullets. Bullets significa proiettili, perché spariamo notizia e anche altro a volte, però quando sbagliamo lo diciamo. Comunque www.radiobullets.com/sostienici, e poi basta seguire le istruzioni. occasioni. Quanto uno vuole dare per noi è già importante, far capire che la gente c'è, che ci crede, che è con noi e che sostiene qualcosa che può fare forse la differenza in un paese che ne ha molto bisogno in questo momento. E queste risorse serviranno a, come dire, dare un po' di stabilità anche al progetto. Sì, assolutamente. Noi fino adesso l'abbiamo mantenuto noi volontariamente per questi 3 anni, dedicando tutto il nostro tempo. Adesso però che la cosa è diventata un pochino più importante, che abbiamo degli ascolti più interessanti e vorremmo fare di più, perché non basta fare un crowdfunding per andare in Afghanistan, vorremmo seguire le cose quando accadono e partire. Io adesso, se avessi potuto e se avessi avuto abbastanza soldi, sarei partita immediatamente per Gaza o per la Palestina o per le proteste in Iraq. Però non lo possiamo fare, perché prima devi chiedere alla gente di poterti sostenere per qualcosa che va seguito, secondo noi e secondo chi poi ci sostiene. Ci dedichiamo tanto tempo, noi ci alziamo alle 5 delle mattine per poter leggere i giornali e essere fuori più o meno verso le 8:30, 9, quando c'è Paola Mirenda, che voi conoscete bene, un po' più tardi, e cerchiamo di fare del nostro meglio per dare un servizio al cliente. Però il giornalismo non è gratis. Pensare che l'informazione non sia un lavoro, se chiamate un idraulico non gli dite voi quanto lo pagate, ve lo dice voi, lo stesso vale per il giornalismo. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. Aggiornamento: mio marito rinuncia all'alloggio. Mio marito, titolare dell'alloggio, dice l'ex ministra Trenta, sta presentando istanza di rinuncia alla casa, il suo è un atto di amore nei miei confronti. Questo a Radio 24, lasceremo l'appartamento nel tempo che ci sarà dato per fare un trasloco, ha detto. E quindi questo riportava così stamattina la vignetta di Gianelli su Quelle della Sera, alla domanda del cronista: salone doppio, 4 camere, 2 bagni, 180 metri quadrati, non è esagerato? Ma noi siamo 30, risponde lei. Però invece adesso abbandona la casa. Ma a Natale tutti vi buoni? Relativamente. E passiamo alla pagina internazionale. San Nicola razzista, scontri nei Paesi Bassi. Nei Paesi Bassi si riaccende la protesta contro Zwarte Piet, Piet il Nero, aiutante di Santa Claus, che in omaggio alla storia colonialista del paese è la caricatura di un nero. Perché in Olanda per Santa Claus, bello immacolato, gira con le rene per i cigli, poi quando c'è da sporcarsi manda il servo negro. Questo è. Quindi, dai. Per tradizione, i giorni prima di San Nicola, il 6 di dicembre, le città si animano di parate e molti si filano truccati da Zwarte Piet. Gli scontri sono ogni anno più aspri. Ieri nella cittadina di Apeldoorn la polizia ha separato manifestanti antirazzisti e gruppi pro-tradizione. Sempre ad Adeldorf, un uomo ha fatto caso al comune, che evita di truccarsi di nero. Non farò figli se non tornano le tradizioni cristiane. Chi se ne frega, non fare figli. Magari smetti anche di scopare, non ce ne frega niente. Respinto. Molte città quest'anno hanno apprezzato Piet. Ora di Piet sporco di cenere è la faccia che non è più nera ma solo sporca di fuligine dai cammini che scende per portare i regali. Questo succede nei Paesi Bassi, mentre tutti i giornali guardano Hong Kong, davvero scontri terribili, studenti armati fino ai denti, polizia armata fino ai denti, non c'è possibilità di dialogo e la cosa finirà in tragedia. Ma come sempre c'è lo strabismo dell'Occidente, perché Hong Kong, visto che è contro la Cina e tutti i giornali ti parlano di democrazia, questi ragazzi altrove sarebbero chiamati spregiativamente Black Bloc, sono chiamati ribelli della democrazia, vado in Bolivia e trovo un trafiletto ma piccolo sul Fatto Quotidiano, altrove non c'è niente. Proteste, impunità ai militari, non sarà un golpe? Allora, sono almeno 9 manifestanti morti in Bolivia da venerdì giorno in cui il governo ad interim del Jeanine Áptez, donna di destra, che è dai pochi tratti indigeni evidentemente, siamo tornati agli ariani in America Latina, ha emesso un decreto di impunità per i militari che reprimono le proteste affiancando la polizia. Cioè i militari possono uccidere e sono completamente immuni da ogni situazione. Naturalmente non si parla del Cile, non si parla di Gaza, dove vuole andare la Barbara Schiavulli di di Radio Bulletin o in Iraq, ma si parla di Hong Kong. Hong Kong Herald Campus è un assedio alla democrazia, appunto. Il giornale non ha dubbi. Se succedesse in Italia che dei ragazzi occupano la statale, armati fino ai denti, sparano sulla polizia, eccetera, non so se si chiamerebbero ribelli della democrazia. Comunque, la battaglia è ancora in corso, almeno 160 feriti. Chi può scappa con l'aiuto degli amici o in motocicletta? Sì, la pagina del Sud America prosegue, almeno dal manifesto, a pagina 12, perché porta in Cile. Piñera ammette, ci sono stati eccessi della polizia, hanno un po' esagerato, insomma, in alcuni casi non sono proprio stati rispettati i protocolli, c'è stato un uso eccessivo della forza, il nostro governo farà tutti gli sforzi affinché nessuno rimanga impunito, così dice il presidente cileno Piñera, liquida così la sequenza di uccisioni, abusi, torture che hanno segnato la condotta delle forze di sicurezza durante la recente ondata di proteste che ha investito il paese, riportato dal manifesto. E restando in Sud America, Bolivia, tra resistenza e repressione, Evo accusa, è per il litio. Ah certo, una grande risorsa, soprattutto per i mezzi di comunicazione, cellulari e quanto ne concerne. Golpe, Morales dal Messico chiama in causa gli Stati Uniti d'America. Dopo la strage dei Cocaleros arriva lo scudo penale per i soldati e il MAS tratta. Arturo Murillo, ministro dell'interno de facto, a Sacaba i manifestanti si sono uccisi tra di loro per poi incolpare l'esercito. Dietro c'è una mente macabra e sappiamo chi è, così dice, insomma, per quanto riguarda la situazione quanto mai controversa, difficile, vittima di golpe della Bolivia, chiamando col suo nome quello che sta succedendo. Di Hong Kong ne abbiamo già parlato, per cui io velocemente vado su Repubblica per citare un'altra situazione grave per quanto riguarda il tempo e il clima. Crolla un ponte a Tolosa, allarme sicurezza in Francia. Secondo un'indagine parlamentare sono almeno 25.000 anche in Francia i viadotti a rischio. Per poi tornare comunque ad argomentazioni per il resto del mondo, a fondo pagina, pagina 20 di Repubblica, Medio Oriente, Israele, svolta degli Stati Uniti, gli insediamenti non sono illegali. Quindi con questo capovolgimento, negazione di una negazione, gli Stati Uniti cambiano radicalmente la loro politica verso gli insediamenti israeliani in Cisgiordania e che Washington non considererà più contrari al diritto internazionale. Abbiamo aumentato le probabilità per la pace, immagino più gli togli territori vedrai come sono pacifici e tranquilli, no? Ha detto il segretario di Stato Mike Pompeo nell'annunciare la decisione, che ha spiegato è stata presa in base ai fatti sul terreno, fornisce un'opportunità a israeliani e palestinesi di mettersi insieme, trovare una soluzione a questo problema assillante. Allora, drammi climatici anche in Somalia, alluvione in Somalia con tanti morti, 17 per il momento si contano le vittime. Vado in Iran, proteste per la benzina, non sarà un paradosso che in Iran costi la benzina e il petrolio, in uno dei paesi maggiori estrattori di petrolio. In Iran 61 le vittime, non sono poche 61 gli scontri, rischio il premier Rouhani. E poi vado in Bielorussia, qui ha trionfato la democrazia, perché si è votato, Lukashenko trionfa, l'opposizione è rimasta senza seggi, ha preso il 100% dei voti, anche perché nel 2016 ha preso un seggio l'opposizione. Sai cosa hanno fatto? Li ha messi fuori legge e quindi non più presentare, però ha vinto la democrazia, si è votato, secondo alcuni. E infine in Spagna, dice il giornale da cui sto leggendo, nostri tra socialisti Podemos fanno tremare i servizi segreti, perché gli 007 avvertono una bomba all'ingresso nel governo gli uomini di Iglesias, cioè i sinistri nella NATO, e quindi a rischio NATO e Unione Europea, niente po' di meno. Detto questo, per Bologna un servizio, poi vi salutiamo, abbiamo già parlato delle sardine modenesi, abbiamo già parlato anche della freddezza del governatore Bonaccini sulla proposta di Zingaretti e sullo Ius Soli oggi, che secondo Zingaretti, secondo Bonaccini porterebbe pregiudizio al mulino di Salvini. Comunque, alluvioni. La bassa bolognese è stata vittima di ben due alluvioni, ci racconta la redazione, ma abbiamo letto anche dei giornali, in appena due mesi. Il 1 febbraio scorso, che ha colpito Castelmaggiore Argelato, l'altro domenica Budrio. Per capire come questo possa essere capitato e soprattutto perché e quanto c'entra l'essere umano, abbiamo raggiunto Alessandra Furlani del Consorzio della Bonifica Renana e sentiamo le sue parole. Con questo vi salutiamo, risentirci domani, ciao a tutti. È un sistema articolato e complesso che si è costituito nel corso dei secoli, ma la cui fondamentale caratteristica oggi è la separazione tra il reticolo idraulico artificiale che gestisce le acque della pianura, cioè la zona a nord della città, e il sistema dei torrenti e dei corsi d'acqua del fiume Reno, dei corsi d'acqua naturali, che invece raccolgono tutte le acque della montagna. Sono due reti, una di tipo naturale ma che ha anche qualche addentellato artificiale, come il Navile, come il Saven abbandonato, che sono canali ma che hanno lo status giuridico di fiumi. Ecco, tutte queste vie d'acqua naturali sono deputati principalmente a smaltire le acque naturali che arrivano dall'Appennino. Veniamo da un periodo di grande piovosità, è piovuto sia in montagna che pianura. In genere, quando le condizioni lo consentono, il reticolo artificiale di bonifica, costituito da una rete di quasi 2 milioni di canali, 26 impianti idrovori di sollevamento e 26 casse di espansione, aspetta che passino nei corsi d'acqua naturali le piene di montagna, che arrivano prima perché portano dietro anche lo scioglimento delle nevi e poi hanno la pendenza, eccetera. Le acque di pianura vengono stoccate nei canali e nelle casse di espansione. Finita la piena dei corsi d'acqua naturali, tramite gli impianti di sollevamento, le acque di pioggia della pianura bolognese entrano a loro volta nel Reno per arrivare al mare, nel Reno o nei suoi affluenti. Il problema è che in questi giorni noi abbiamo avuto una pioggia abbastanza imponente, che si appoggiava su, insomma, un periodo piovoso precedente. Quindi il nostro sistema, che è un sistema di bonifica artificiale, aveva, diciamo, era già molto impegnato nello smaltire le proprie acque e si è trovato in queste ultime 48 ore a dover accogliere acque invece che sono tracimate da piene che sono acque di montagna, quindi sollecitato in maniera importante. È una situazione complessa, la pianura così come la vediamo noi, asciutta, eccetera. Se si fermassero gli impianti della Renana, in 6 mesi tornerebbe sotto la trasversale di pianura tutta palude, in un inverno come questo normale. Certo, quando ci sono situazioni emergenziali come le rotture degli argini, questo complica molto la situazione. Sembra un ossimoro, però visto che eventi eccezionali sembrano essere sempre più frequenti, c'è bisogno di un ripensamento del sistema? Che cosa bisognerebbe fare? Chiaramente questi momenti sono sempre momenti in cui il sistema fa i conti con se stesso. Il sistema antico di bonifica è stato completato intorno agli anni 30, quando il territorio non era assolutamente così urbanizzato. Quindi abbiamo una trasformazione del territorio che rende molto più veloce l'arrivo delle acque nel sistema idraulico di scolo e che impedisce anche l'assorbimento di una buona quantità d'acqua. Poi abbiamo sicuramente questa trasformazione climatica, perché facciamo un esempio: se noi in questo momento avessimo le piogge ma avessimo delle temperature in montagna compatibili con la media stagionale, cioè ci fosse freddo, non avremmo anche lo scioglimento delle precipitazioni dei giorni scorsi, della neve dei giorni scorsi, cioè è un insieme di concause. Per esempio la pompa di Campotto, che sta pompando in questo momento da sabato 21 metri cubi al secondo in Reno, è stata realizzata per integrare il sistema dopo quella che era stata l'alluvione del 1996. La dinamica uomo ed elementi naturali è sempre una dinamica che ha dei gradi di incertezza. Ecco, se a questa dinamica noi, che già ha le criticità che abbiamo detto, trasformazione territoriale, cementificazione, cambiamento climatico, eccetera, aggiungiamo l'evento infausto della rottura di un argine, chiaro che le programmazioni, insomma, fanno un po' fatica. Noi ci prepariamo ogni anno in maniera strutturale a questa stagione con la pulizia dei canali, lo sfalcio, riprendiamo tutti i nostri canali, riprendiamo le frane arginali proprio per evitare che ci siano momenti, insomma, di questo tipo, però la capacità di accoglimento di questo reticolo è calcolata sulla pioggia della pianura bolognese.